Allora sì, purtroppo anche il navile è esondato ed è le prime ore della mattina che siamo tutti in stato raccordo per monitorare e siamo proprio anche sul posto. Allora, è esondato nella zona di Corticella tra via dell'Arcoveggio e via delle Fonti, dove prontamente ci siamo recati io stessa con l'assessore e la polizia locale, e lì appunto ci stiamo occupando perché la priorità di tutto è mettere in sicurezza le persone, quindi rispetto volentieri le regole da rispettare, cioè chi abita al piano terra assolutamente non deve andare in cantine, garage, cioè tutti non devono andare appunto ai piani più bassi, chi può si metta all'altezza maggiore possibile. E poi l'altra grande avvertenza è quella di non uscire se non in caso di necessità e di monitorare il passaggio, il raccordo di informazioni, ovviamente sia dal lato nostro istituzionale, ma che ci arriva anche dai cittadini, è molto importante in questo momento. Stiamo facendo tutti i sopralluoghi e devo dire che ci sono anche alcune buone notizie, nel senso che il ponte della Bionda che ci preoccupava nelle prime ore della mattina è anche diminuito, insomma, il corso d'acqua, il livello dell'acqua, così come anche nella zona della trattoria ad Assandro, per dare delle indicazioni, no, che possono anche orientare le persone. Noi stiamo appunto monitorando, stanno anche arrivando dalla Protezione Civile i sacchi di sabbia. Quello che chiedo è davvero la massima allerta, di tenerci raccordati con informazioni che possono essere utili, soprattutto per mettere in sicurezza le persone. Ecco, chi vivesse in zone, insomma, dove c'è questa grande criticità, magari ha una casa al pian terreno, ci sono dei luoghi sicuri dove può andare? Allora, appunto, stiamo predisponendo proprio questi anche luoghi per dare le indicazioni. Allo stato attuale, dipende appunto da dove si trovano, devono contattare appunto il quartiere, la polizia locale, e noi appunto ci attiviamo per capire esattamente qual è la soluzione migliore in base alla richiesta e all'esigenza. Prego. Questo ci fa capire che i cambiamenti climatici non possono più essere declinati al futuro. Quello che noi stiamo vivendo è esattamente l'effetto di quello che sono i cambiamenti climatici. La protezione del territorio, la messa in sicurezza delle nostre città passa da azioni politiche che devono vedere la riduzione dei gas inquinanti, devono vedere una strategia che non può più essere negata a tutti i livelli. Quindi questo deve diventare davvero una priorità politica comune. Quello che sta succedendo è davvero una sveglia che non possiamo più assolutamente permetterci di non prendere in considerazione serissima. Ora concentriamoci per risolvere i problemi, ma la questione politica fondamentale è questa.